Libro di Gioele. Parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Udite questo, anziani, ascoltate tutti, abitanti del paese. È mai capitato ciò ai vostri giorni o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli e i figli vostri ai loro figli e i figli di costoro all'altra generazione. Il resto del verme l'ha divorato la locusta, il resto della locusta l'ha divorato il bruco e il resto del bruco l'ha divorato la cavalletta. Svegliatevi, ubriaconi, e piangete. Lamentatevi tutti, bevitori di vino, per il mosto che vi è stato tolto dalla bocca. Un popolo assale il mio paese. Esso è forte e innumerevole. I suoi denti sono denti di leone, ha i molari di una leonessa. Ha ridotto le mie viti ad uno sterpo, le mie ficaie a tronchi di legno secco. Le ha tutte scortecciate, abbattute, i loro rami sono rimasti bianchi. Piangi come fanciulla vestita di sacco per il suo giovane sposo. Offerta e libagione son sparite dalla casa del Signore, facciano lutto i sacerdoti, i ministri del Signore. La campagna è brulla, il suolo è in lutto, che il frumento è devastato, il mosto non c'è più, l'olio è finito. Impallidite, agricoltori, urlate, vignaiuoli, per il frumento e per l'orzo, la messe dei campi è perduta. La vite si è seccata, il fico è inaridito, il melograno con la palma e il melo, tutti gli alberi del campo si sono seccati. Sì, è scomparsa la gaiezza di mezzo agli uomini. Cingetevi, fate lamentazioni, sacerdoti, urlate, ministri dell'altare. Venite, pernottate vestiti di sacco, ministri del mio Dio. È scomparsa dalla casa del vostro Dio offerta e libagione. Prescrivete un digiuno rituale, convocate una adunanza, riunite gli anziani, tutti gli abitanti del paese, nella casa del Signore vostro Dio, e gridate al Signore. Ah, quel giorno! Sì, il giorno del Signore è vicino. Viene come la devastazione dell'Onnipotente. Forse non è vero? Davanti ai nostri occhi è scomparso l'alimento. Dalla casa del nostro Dio la gioia e il giubilo. Sono marciti i semi sotto le zolle. Sono vuoti i magazzini, distrutti i granai, perché il grano è finito. Come si lamenta il bestiame? Vagolano gli armenti di buoi, perché non c'è più pascolo per loro, perfino le greggi la scontano. A te, Signore, io grido. Il fuoco ha divorato i pascoli del deserto, la fiamma ha consumato tutte le piante del campo. Anche gli animali campestri si rivolgono a te, perché si sono seccati i corsi d'acqua, e il fuoco ha divorato i pascoli del deserto.